Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Oggi è giovedì 21 febbraio, rieccomi qui a condurre anche questa volta il mio appuntamento del giovedì sera. Quindi buonasera a tutti voi all'ascolto di Blue Radio Veneto con la voce questa di Agostino Spalaore, che vi augura una buonissima serata questa sera all'insegna della musica d'autore con un personaggio che ci raggiunge da Genova, ma ne abbiamo modo di parlare tra qualche istante. Prima devo salutare il mio fedele nonnetto che è immancabile, c'è sempre. Ciao Maurizio. Guarda che c'hai il microfono che non ti sente. Non ti sento. Non ti sento. Maurizio, non ti sento. Mi senti adesso? Ti sento. Benissimo. Dicevo, è l'onda lunga di Sanremo. È l'onda lunga di Sanremo. Molto lunga, molto, molto lunga. Beh, abbiamo dei liguri qui stasera, quindi è l'onda lunga proprio anche per questo. Non, sì, non proprio, però insomma, ci potrebbe essere. Allora, io, beh, visto che abbiamo accennato a Sanremo, rubo qualche istante, consentimelo Matteo, di trasmissione per fare i miei ringraziamenti appunto per la splendida avventura che io e Alberto Prisco abbiamo vissuto lì a Sanremo, all'interno del festival, appunto dentro la casa di Sanremo, conoscendo i cantanti eccetera eccetera. Vivere il festival all'interno è una cosa splendida, ve lo posso garantire, vi auguro anzi a tutti voi di poterlo fare. Ma il mio ringraziamento, dicevo, va soprattutto alla Antonella Gucci della AGI Communication, appunto, che mi ha permesso tutto questo. Quindi un grazie di cuore da parte mia, da parte di Alberto Prisco, e ci rivediamo senz'altro anche un'altra volta, perché no, a Sanremo, ma anche prima. Ciao Antonello, un abbraccione, un grazie veramente di cuore. Detto questo, diamo il benvenuto, Maurizio, se sei d'accordo, al nostro ospite, cioè Matteo Conta. Ciao Matteo. Ciao, ciao a tutti, ciao Veneto, ciao Maurizio, ciao Agostino, grazie dell'invito innanzitutto. Hai fatto un viaggio, diciamo, travagliato. Ho fatto un viaggio al di fuori della realtà, in realtà, perché sono partito da Genova col sole, sono arrivato a metà, a un terzo di autostrada, che ha cominciato a nevicare come anni che non che vedevo. Però siamo venuti qua tranquilli, non ci ferma nessuno, okay. Non ci ferma niente, neanche la neve ci ha provato. Per la musica questo è d'altro. Per la musica questo è d'altro, assolutamente. Però ti sei portato i tuoi amici, insomma, i tuoi compagni di viaggio. Mi hanno accompagnato in tutti i sensi. Mi hanno accompagnato, esatto. I miei compagni anche di viaggio di ritorno. È fondamentale questo. È venuto con me Andrea Garrone. Ciao. Alla ciao. Chitarra, che mi accompagna alla chitarra, e Stefano Carta, che mi accompagna al basso. Ciao. Parlate vicino ai microfoni, per cortesia. Sì. Ciao a tutti. Ciao. Ecco, perfetto. E cosa volevo dirti? Prima di partire proprio con l'intervista vera e propria, diamo i nostri dati, ovviamente quelli tecnici, tra virgolette, insomma, il nostro numero telefonico con in studio, 049-875-6423. Mentre per gli sms, se ne volete mandare qualcuno, siamo ben felici di leggerli, e chiaramente se avete domande da fare a Matteo Conta, lui vi esaudirà, insomma, le vostre richieste, nel senso di domande. Ovviamente, dicevo, il nostro numero di sms è il 346 23 20 033. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza. E poi ancora il nostro sito dove ci ascoltate in streaming, cioè www.bluradioveneto.it, e lì trovate, come dico sempre, le recensioni e anche i fatti, le cronache, insomma, che accadono soprattutto qui nella nostra regione, cioè il Veneto, ma anche al di fuori. Poi trovate, insomma, tutti i nostri appuntamenti che abbiamo live serali, che cominciano il lunedì dalle 21, spesso e volentieri trovate anche qualcosa dalle 22.30 del lunedì. Sì, soprattutto in queste ultime settimane. Settimane, sì. Però come, insomma, i giorni canonici, tra virgolette, del live sono i martedì, mercoledì e giovedì, ovviamente con vari speaker che si succedono. Insomma, questa sera tocca sottoscritto assieme a, appunto, Maurizio Calzavara. Credo di aver detto tutto, torniamo a noi, torniamo a tutto quello che conta, Matteo. Tuo disco di esordio. A lunga gittata, possiamo dire questo. A lunga gittata, sì, è il primo disco, spero che non sia anche l'ultimo, logicamente. No, perché assolutamente no. Dopo tanti anni, diciamo, che sì. Scrivo canzoni per passione, io ho cominciato che avevo 14 anni a cambiare le canzoni, non faccio nomi di chi, perché logicamente sì, potrebbero anche offendere. I nastri, sentivi, i nastri. A volta c'erano i nastri. Esatto, che poi li rivolgevi con la matita per risparmiare la pila del Walkman. È vero, una volta si faceva così. Una volta si faceva così, perché... E niente, questo CD è stato un po', diciamo, un affermare quello che ho sempre fatto da tanto ragazzino, tempo. Sì. Per passione, sì. per piacere, anche fondamentalmente un po' perché sono così, un po' bisogno di esternare in qualche modo, cioè chi dipinge, chi usa la fotografia, chi la scultura, è una forma comunque di sfogo, no? Per partecipare poi in realtà alla realtà di tutti i giorni. Sì, tu hai detto una cosa giusta, mi sono appassionato alla musica italiana, però tra virgolette, anche se la musica non ha una etimologia, può essere americana, inglese, francese, italiana, è sbagliato, giustamente tu hai detto, fare delimitare, la musica è musica e basta. Sì, secondo me la musica italiana è perché è cantata in italiano. Chiaro. Come rock e rock. In tutti i settori del mondo è sempre rock. Esatto. Poi può avere qualche influenza più o meno diversa in base, sì, anche al posto, alla situazione, eccetera. Alla gente, alla mentalità, ecco, a tutto quanto. Però la musica è musica, che sia cantata in italiano o in inglese. L'importante, secondo me, è incastrare bene, perché una cosa importante nella musica, che sia italiana, inglese o giapponese, è il suono delle parole. Perché le parole sono composte da vocali e consonanti. Le vocali sono una melodia, le consonanti sono una ritmica. Quindi a volte bisogna anche, cioè sento anche delle canzoni che modificherei, a parere mio logicamente, per mio gusto, per incastrare un po' meglio il testo con la musica, in modo che vada d'accordo anche con gli strumenti, mm-hmm, che si stanno utilizzando in quel momento, danno anche un senso, un accento anche di rabbia piuttosto che di amore, piuttosto che di sensazione che vuoi trasmettere attraverso il testo. Non basta solo scrivere delle parole, secondo me bisogna, almeno io mi diverto anche a incastrarle in modo musicale, ecco. Sì, noi abbiamo scritto strumento. Esternare le emozioni, perché l'essere cantautore, perché adesso parliamo di cantautore, deve proprio esternare le emozioni, le costruisce da se stesso e poi le esterna, cioè le fa sentire agli altri. Questo è essere cantautore al 100%, e quello è il tuo discorso, il tuo modo di ragionare. Sì, esatto, è proprio mettere su carta, che poi è su musica quello che su carta lui ride. L'ho portato apposta perché lui ride. Dovrà portare un grosso peso Stefano Carta, c'è il basso perché... per quello è un grosso peso queste emozioni che vengono spesso molto spontaneamente. Ci sono delle volte che magari inizio a scrivere una canzone, tipo ho finito 2 settimane fa di scrivere una canzone che ho iniziato 3 anni fa. Ci sono delle canzoni nel CD che poi, quando magari le mettiamo, dirò nello specifico quale, sono state scritte una settimana prima, di getto in 2 ore, cioè dipende poi anche dalla situazione, dall'emozione, da tutto quello che conta fondamentalmente nella vita. Tutto quello che conta, tutto quello che conta. Appunto. È un gioco, un sottile gioco, che fa bene alla salute. Cioè, la gente capisce subito che il tuo disco si chiama Conta, chiaramente. Esatto. Se mi chiamassi Parodi non potevo mettere un titolo. Lo poteva fare la rima, chiaramente. Sì, non era. Insomma, Galeotto è stato tuo padre, insomma, che ti ha insegnato a suonare la chitarra, giusto, Matteo? No, più che mi ha insegnato, scusa papà, non volevo dire. Mi ha affascinato, nel senso che quando ero piccolo c'era questa chitarra classica in casa e mio padre sapeva suonare un arpeggio, solo quello, sempre solo quello ha sempre fatto. Però a me ha sempre affascinato, sin da bambino, questo suono di questa chitarra, sentire lui che suonava questo arpeggio e fischiettava il motivo della melodia, della voce di questa canzone, e mi ha sempre affascinato. Allora ho cominciato anch'io un pochino a prendere un po' la chitarra in mano, ho preso qualche lezione così, però proprio di accompagnamento. Io non mi ritengo sinceramente un musicista, nel senso che i musicisti sono quelli che usano lo strumento per esternare le proprie emozioni. Io lo uso per accompagnare le mie emozioni, cioè per scrivere le parole, per metterle in rima, per dargli un'intonazione. Però in realtà io, come si presentò Finardi quando era all'inizio di carriera, all'inizio ho detto ciao a tutti, mi chiamo Gianni Finardi, suono male la chitarra e canto, ecco. C'era Camerini, la suonava bene per lui, esatto, infatti. È quello il problema. E poi è arrivato dove è arrivato, insomma. Quindi, sì, è arrivato, cioè, sì, esattamente. No, beh, chiaramente è arrivato. Noi amiamo particolarmente Finardi, un regista straordinario. Abbiamo anche ospitato un sacco di volte. L'abbiamo anche avuto, sì, dei bei trascorsi musicali con lui. Sì, Finardi è uno dei cantautori che tu ami particolarmente, il tuo punto di riferimento all'inizio. Poi le cose sono cambiate, sono aumentate, sono allargate, giustamente. Hai preso posizione te. cioè vuoi fare la tua musica. Le rivelazioni sono sempre interessanti, ma poi si costruisce da solo. Sì, sì, sì, perché comunque ci sono delle influenze, diciamo, da vari, dai vari. Io sono cresciuto ascoltando Finardi, ascoltando Camerini, Ruggeri, un po' la vecchia scuola di musica italiana. Anche se sono genovese, non abbiatecela con me, io non ascolto i cantautori genovesi famosi, famosi, perché quelli non famosi li ascolto tutti. E, ma posso chiederti perché non ami i big, diciamo, genovesi? Ma forse perché sono troppo un'imposizione nella cultura cantautoriale genovese. Cioè, le volte che mi hanno fatto qualche domanda su come scrivo, sul perché, eccetera, eccetera, hanno sempre infilato un po' De André, hanno sempre infilato un po' Gino Paoli, hanno sempre infilato. No, io non li ho mai ascoltati più di tanto. Cioè, Fossati? Le canzoni più famose. Fossati. Meno. Un po' di più, forse. Perché è un rocchettaro. Sì, però mi piacciono di più cantate dalla Mannoia, ad esempio. Ah, ok. Cioè, molto belle le canzoni di Fossati, mi piacciono tantissimo, però. Non è proprio il mio genere, ecco, come stile, ecco, come. Però, riconoscendo, inchinandomi di fronte alla grandezza di Fossati, perché. Voglio dire, scrivessi una canzone per la Mannoia, probabilmente sarei l'uomo più felice del mondo. Immagino. Immagino. Abbiamo un appuntamento, Matteo, con l'appuntamento? Abbiamo un appuntamento che è nata, posso dirlo? Sì, certo. Come no? È nata dall'immaginazione, in realtà. Nel senso che è un appuntamento mancato. È quel classico appuntamento che si ha quando si sta tutti i giorni nello stesso posto, magari in pausa pranzo, piuttosto che aspettare l'autobus o cose, passa la ragazza, che tutti i giorni anche lei passa da lì, e dici oggi la incontro, oggi la conosco, oggi mi presento, mi faccio coraggio, tutto quanto, mentre pensi tutte queste cose lei tanto è già andata via, ecco. E quindi dici vabbè, sarà domani. Allora questo è l'appuntamento unidirezionale, perché non si ma è una storia vera questa? È una... No, è una storia inventata. È una storia, è una storia inventata. Sì. Vabbè, le ascoltiamo? Ascoltiamola. Spero che non ti dispiaccia, ma non è facile guardarti in faccia mentre cerco spudoratamente un argomento, primo che mi viene in mente. Niente, potrei chiederti dove lavori e potrei starti ad aspettare lì fuori, magari fingere di fare il duro, bello, tenebroso, misterioso uomo nero. Posto, ogni giorno lì ad ogni costo, per rivivere l'uguale istante, ripetuto all'infinito e che passa indifferente. Basta che ci sia un momento giusto, uno sguardo, un cambiamento, un gesto, che mi faccia fare all'improvviso un passo, dire una parola e strapparti un bel sorriso, ogni giorno è più difficile di ieri, però domani è quello giusto ed io lo so, non è questione di amicizia, fatti chiari, vorrei darti i miei pensieri, però adesso non ne ho. Potrei dirti che guadagno molto, che sono bello, intelligente e colto, che quando punto sempre in alto, occhio se mi vuoi fregare, perché sono tipo scaltro. Potrei dirti che mi piaci tanto, che voglio bene agli animali e canto, ma non vorrei sembrasse che mi vanto, forse meglio stare su un palco finta che non mi presento. Forse troppo tempo ti ho aspettato, però lo sai da quando ti ho incontrato, mi sono chiesto ripetutamente come posso fare, cosa posso dire, quali regole devo seguire per riuscire a dirti qualche cosa che non sia banale. Bene o male, tutto vale come quando è carnevale, ma è lo più normale. Ti guardo scomparire in fondo al viale, però domani è quello giusto ed io lo so. Se tarderai non è un problema, aspetterò. Come la stella sei, come te, come tale, se sfuggita prima o poi, però lo sai, ti prenderò. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Blue Time. Allora, Matteo, l'appuntamento. Eccoci. Eccoci qua. L'appuntamento, guarda, è un pezzo che è nato musicalmente, stavamo chiacchierando adesso con Maurizio. E lui ha la fortuna di poter carpire qualche segreto, perché è sempre dentro, lui la chiama la fossa dei leoni, no? Ma io mi confido molto con lui, sì, segreti. Perché è cioè gli ascoltatori lo sanno, ma adesso lo ripeto, quando uno, il regista è al di là del vetro e vede le movenze nostre e guida le movenze nostre, ma io che sono sempre in mezzo alla fossa dei leoni, cioè proprio sento l'humus del musicista, è tutta un'altra cosa, una cosa meravigliosa secondo me, e divento musicista anch'io realmente, cioè, che fanno faccio parte dell'ambiente, del gruppo, del suonare, del suono. E quello io capisco, tu mi hai spiegato perché è nato l'arrangiamento, perché questo è un arrangiamento molto sfingante, perché di tanti musicisti che hanno partecipato dopo alla stesura del pezzo, ma l'idea era tua, poi si è sviluppata, si è allargata, perché è un jam session continuo il vostro disco, c'è un sacco di musicisti. Sì, esatto, ci sono partecipazioni di molti musicisti che... molti amici, tra l'altro. Molti amici, molti, questo è importante. Amici e... sicuramente sono stato anche onorato di averli con me, perché comunque è importante suonare per la gente che ascolta il CD, per la gente che viene a sentire. Una cosa secondo me molto importante per chi scrive canzoni e suona, molto emozionante, molto gratificante, è avere persone che suonano i suoi pezzi. Sì, perché cioè, ok, uno dice sono andato a sentirlo, che bello, va bene, ascoltare è anche difficile ascoltare, perché chi ascolta vuol dire che non sente, si mette lì e ci ragiona sopra, cerca di carpire anche delle emozioni, delle informazioni. Il musicista che suona con un cantautore, chiunque sia, cioè gli dà proprio del suo, non è che le ascolta, le impara, le fa sue. Infatti a me piace molto che chi suona con me ci metta del proprio, cioè non importa se nel CD una chitarra è fatta in un modo o c'è uno strumento che poi dal vivo non c'è. La musica, la canzone è la canzone, il contenuto della canzone, io parlo del contenuto perché cantando in italiano e dando molta immediatamente il mio ruolo è scrivere il testo, diciamo, più che, però il contenuto proprio della canzone, tutto quanto viene trasmesso proprio anche dai musicisti, viene carpito, viene fatto proprio, quindi è giusto che se cambia chitarrista, se in quel momento la suona un pianista piuttosto che un violinista, ci metta del suo, non ci deve essere un'imposizione. Poi ci sono magari qualche passaggio che sono degli obbligati, delle cose perché ci stanno bene, perché si creano anche suonandole queste cose. Questo CD praticamente è nato, intanto voglio salutare Rossano Villa che ci ha aiutato molto in questa costruzione di questo CD all'Hilary Studio. L'abbiamo fatto nel 2011, è finito la registrazione di tutto questo CD. E la cosa bella è che è nata proprio da chitarra e voce, certo con degli arrangiamenti un minimo fatti perché li abbiamo suonati da tanti anni dal vivo, però un lavoro in studio essendo diverso, abbiamo trovato comunque una persona che ci ha accompagnato in questo lavoro in studio, non ci ha lasciato da soli, rec, stop, play, buona la prima. Anzi, proprio in questo pezzo qua Rossano suona i fiati. È stato bello il momento quando eravamo lì davanti allo schermo con le tracce visibili, le tracce audio visibili, tutto quanto, stavamo ascoltando questa canzone, a un certo punto dice, si è alzato e ci fa, aspetta un attimo, ho avuto un'idea, è andato di là, ha preso una scatola, l'ha aperta, dentro c'era il trombone, ma dico schiaccia il rec quando te lo dico io, quindi ho fatto anche il fonico in questo. Ti mancava. E è andato di là e ci ha messo le tracce di tromba e di trombone che gli sono venute in mente in quel momento, perché si è fatto comunque anche lui, pur essendo lì a lavorare, ha partecipato emotivamente a questa costruzione, quindi è stato proprio un lavoro di gruppo, ecco, di... Chi era il tuo chitarrista? Il mio chitarrista era Matteo Casu, che salutiamo, che salutiamo. Ciao, certo, Matteo, che salutiamo. Ciao a tutti, eccomi qua. Oh, grazie. Ciao, Matteo. Ero in agguato. Ma allora c'eri. Sorpresa. Grandissimo Matteo Casu, che praticamente mi ha accompagnato per 12 anni. Per 12 anni abbiamo suonato insieme io e te, Matte. E poi ti sei stancato. Era un fidanzamento musicale. Matteo, ti sei stancato poi di lui? No, assolutamente, assolutamente. È che sono, diciamo, emigrato. Infatti, vi chiamo dalla capitale Fabauda. Ah, sì. sono emigrato un po' più a nord per lavoro e quindi mi tengo in contatto, diciamo, con i vecchi amici, soprattutto musicali, e cerco di non arrugginirmi. Cioè, ma tu quando Matteo mi ha fatto sapere che ci sarebbe stata che sarebbe stato ospite da voi, ero molto contento, perché in qualche modo questa cosa appunto fissa anche un piccolo traguardo del nostro lavoro insieme, che, come ha detto Matteo prima, sento anche un po' mio assieme ad altri che hanno partecipato, ecco. Certo. Beh, ma è giusto, insomma, quando uno fa delle cose fatte bene è giusto valorizzarlo, giusto? Grazie mille, hai fatto bene. Però appunto merito di tanti, sicuramente di Rossano, e anch'io confermo. E poi sull'ultimo pezzo, peraltro, sempre per dire un po' l'atmosfera che c'era in studio, mi veniva in mente al volo un piccolissimo aneddoto, cioè il fatto che quella specie di schiocco che si sente alla fine della canzone, quel che sembra il classico schiocco con la lingua, in realtà era l'indice di Matteo sulla chitarra acustica, che per sbaglio è andato a toccare la chitarra. Ah, e poi, ecco, abbiamo detto lasciamolo, il mignolo. Ecco, vedi. Vedi, certe cose non si conoscono, ma abbiamo conosciute, sono sapevo, cose belle, interessanti, certo. Perché certi pezzi vengono costruiti anche sugli incidenti, tra virgolette, esatto. Chiaramente, sempre tra virgolette. Allora, che esperienza è stata suonare con Matteo Conta, con Matteo Casu? La mia esperienza, a me è cresciuto molto, perché comunque, con Matteo io l'ho conosciuto che aveva 17 anni. Mm-hmm. E lo accompagnavo a casa quando andavamo in saletta a provare, andavamo a prenderlo, lo accompagnavamo perché era ancora senza patente. Esattamente, non aveva ancora la patente. Lo accompagnavamo a casa, premetto che la famiglia, ho conosciuto tutta la famiglia, una famiglia meravigliosa, quindi saluto tutta la famiglia Casu. Quindi, e niente, siamo cresciuti insieme praticamente musicalmente, perché io portavo le mie canzoni, lui, c'è sempre stata una sintonia molto immediata anche nella costruzione dei pezzi, negli arrangiamenti. Poi magari dopo 2 anni che suonavamo la stessa canzone cambiava qualche cosa, dicevamo dai, sì, rifacciamola così. Tipo, c'è una canzone che si chiama Il tesoro più grande, che in realtà l'abbiamo suonata per qualche anno, era in 3/4 e poi è diventata una versione rock perché ci è venuto così una volta in saletta. Cioè, c'era molta sinergia tra me e Matteo, infatti siamo rimasti poi lo zoccolo duro del gruppo, ecco, poi logicamente andando a vivere a Torino e tutto è stato un po' difficile trovare comunque, e ringrazio Andrea, sono contento di aver trovato Andrea che è una persona seria e tutto, perché è stato difficile trovare è facile trovare dei musicisti, ma è difficile trovare dei musicisti con cui andare d'accordo. Ma Matteo faceva parte dei 16.500. I CAP 16.100. Noi ci chiamavamo CAP 16.100. Il gruppo che aveva Matteo Conta e Matteo Casu. E Matteo Casu, esattamente. Esatto. Sì, sì, sì. Poi c'era Massimiliano Arioli, che saluto, che è un amico fraterno, e alla batteria. E è cambiato poi il bassista, bene comunque. Sì, diciamo che chi è rimasto per tanti anni, chi ha resistito di più sei te, Matteo. Lo zoccolo duro è Matteo, insomma. Abbiamo passato alcuni momenti praticamente, come dire, il gruppo erano rimasti quasi da soli, poi appunto con qualche avvicendamento, qualche amico che arrivava, qualcuno che purtroppo se ne andava, ma insomma per fortuna abbiamo resistito, perché poi appunto c'è stato l'attimo in cui Matteo ha deciso, ha detto ok, adesso è il momento, facciamo il CD, e per fortuna c'è stata sinergia anche in quello, non solo tra me e lui ma anche tra gli altri che hanno partecipato, come dicevate prima, quindi insomma siamo stati fortunati, secondo me, ecco. Quanto ci avete messo a fare questo disco? Chi è che mi risponde? Facciamo insieme, al tre. Uno, tre mesi. Abbiamo cominciato che era ottobre e abbiamo finito a febbraio, quindi... Ma se intendiamo in studio, sì, ovviamente non full time, ecco. No. Con i ritagli di tempo, comunque molto sentiti e sofferti, ma ci siamo anche molto divertiti. Sì, comunque appunto, come ha detto Matteo, in effetti alcuni mesi, ma appunto fine settimana ce li passavamo tutto il giorno in studio, dalla mattina alla sera, se ti ricordi che uscivamo che non sapevamo più neanche come ci chiamavamo, chiamandoci anche allo stesso modo, tra l'altro un colorito un po' così, un po' il bianco e il blu, anche se, anche se il disco che adesso stiamo presentando è praticamente il risultato di tanti anni di peregrinazioni sul bike. Sì, la base comunque è quella, poi l'arrangiamento è stato modificato, sì, diciamo, certo, riadattato a livello di studio a tavolino, logicamente, perché non avendo esperienza di studio siamo stati fortunati di aver trovato anche Rossano che ci ha dato, cioè, abbiamo imparato anche molto a suonare cose diverse per proprio gli insegnamenti di Rossano, i consigli e le cose che logicamente se suoni sempre in un certo modo rimani fermo lì, dandoti delle idee, aperto anche delle, che poi c'erano delle cose che nel CD ci sono, prima non c'erano, le abbiamo ottenute anche dopo. Ho capito. Perché logicamente non possiamo portarci un'orchestra di 23 componenti, cioè, ma esattamente. Siamo anche, però in quattro si cerca di tenere comunque la cosa che c'è, sì, il cuore, imparate, il cuore, esatto, la cosa più incisiva magari di qualche canzone. Te lo aspettavi Matteo Casu? Ti chiamerò Casu. Va bene. E neanche Matteo C va bene, perché... Ah, Matteo C va bene. E neanche Matteo C non va bene, giusto? No, esatto. Dicevo Matteo telefonico, facciamo così, via. Te l'aspettavi la dedica nel librettino di Matteo in studio? Ma devo dire, cioè, nonostante sappia benissimo quanto appunto siamo stati affiatati, anche perché, come ho detto prima, ci sono stati alcuni momenti in cui ci siamo sentiti come se il gruppo, tra virgolette, fossimo noi. Poi c'è da dire che Matteo è molto generoso, perché appunto, pur essendo il cantautore, quindi in qualche modo il motivo di esistere di tutto il progetto, però ha sempre chiamato il progetto un gruppo, no? Mm-hmm. E ha sempre dato importanza, come dire, paritaria a tutti. Però effettivamente, come dire, l'atto proprio della dedica fisica sul CD non l'avevo messa in conto, finché ovviamente poi l'ha detto, mi pare, qualche giorno prima che poi ce l'avessi fisicamente in mano. No. E mi ha fatto molto piacere, anche se appunto più che quello ha fatto il periodo insieme prima, no? Certo. Cioè le azioni, le emozioni, le cose, la ciliegina, diciamo, che lui ha dato a me come ad altri, cioè in qualche modo, cioè, la generosità di Matteo è stata che ogni tanto ti dà anche carta bianca, no? si fida di quello che tu puoi mettere come musicista. Comunque io la leggo la dedica, dice: un particolare ringraziamento va a Matteo Casu, al quale dedico quest'album, non solo perché è la chitarra di questo progetto, ma soprattutto perché è già da più di 10 anni che condivido questo percorso con lui, affrontando insieme le situazioni più disparate, gli aneddoti più divertenti, le difficoltà e le soddisfazioni, trovando in lui, oltre che un eccellente collaboratore musicista, anche un ottimo amico nella vita. Poi continua ancora dicendo: grazie anche a tutte le persone che negli anni hanno suonato con me e a coloro che continuano a farlo e a tutte le persone che mi hanno sempre ascoltato e fortemente motivato, a chi mi ha fatto capire che i sogni sono cose in cui credere. Giusto? Ti ha emozionato, giusto, Matteo? Ah no, pensavo chiedessi giusto all'altro Matteo. Sì, scusate. Sì. No, dobbiamo... no, giustissimo. Se posso aggiungere, forse mi viene in mente adesso, ma forse questa... come dire, anche questo aspetto emotivo nasce anche dal fatto che forse non è noto a tutti, ma la Liguria musicalmente è un territorio abbastanza duro, no? Sotto certi aspetti, cioè nonostante sia attivissima e sia piena zeppa di gruppi, di idee, di proposte musicali, però poi, come dire, sul territorio suonare dal vivo o al momento probabilmente in tutta Italia, ma noi tradizionalmente è abbastanza dura, no? Quindi ci sono vari momenti in cui appunto avere un progetto e gente in cui ci crede è molto importante. Certo. Beh, noi come radio abbiamo pescato moltissimo dalla Liguria, da Genova e dintorni, perché abbiamo trovato veramente grandi, grandissimi artisti. La settimana scorsa avevamo Zazza, 2 settimane fa anzi, eravamo Zazza. Anche dal punto di vista fisico, anche... no, la settimana Zazza. Prossima ci sarà Savino. Insomma, grandi, sì, lo salutiamo ovviamente. Certo. Poco fa su Facebook gli ho detto che c'era questa cosa, insomma, con Zazza anche, sì, siamo una piccola gang dal punto di vista, sì, di Zero Cover, di quello che è stato, no? Quindi Zazza è sicuramente un altro di quei personaggi che senza di lui, come dire, le cose sarebbero più dure di quello che già sono. E la settimana prossima ci sarà Savino, quindi è fatta. Lo conosci? Lo conosci? È passata Chiara Ragnini, Cara in Ciaccia, Andrea, sì, Celeste, mi sono venuti veramente di tutti e di più. Senti Matteo Casu, sì, ci fai compagnia, stai con noi? Certo, volentieri. È perché lui si è fatto quanti, 500 km circa per venire a suonare, insomma, e adesso sotto la neve. La nevicata, che erano anni, che neanche l'era glaciale, cioè. Cosa dici se lo facciamo suonare senza di te, però, Ottimo, anzi sono curiosissimo, quindi sì. Matteo, cosa ci fai ascoltare dal vivo? Va bene, io inizierei tu a farvi ascoltare una canzone che dal titolo è molto significativa, nel senso che è 29 febbraio, mm-hmm. e il titolo è la data del mio compleanno, il giorno del mio compleanno, quindi... Quindi compi gli anni ogni 4. Sei fortunato. L'anno scorso ho fatto 10 anni, sono molto precoce, anche se non sembra, non lo dimostro. Ma... allora, quindi ascoltiamo 29 febbraio. Sei l'eco di un sospiro che mi sveglia ma non sento mai, e non c'è bisogno che mi dici che va tutto bene, anche se dire una bugia può non sembrare bello, grazie lo stesso. Significativo. A me piace molto questa chitarra nuova, di nuova concezione, senza la cassa armonica vera e propria, stilizzata. Tu sorridi, ma te è un caso al telefono. Sì, perché lui sa. No, adesso me la descrivi, Matteo, conta che sei qua davanti. I nostri ascoltatori non hanno le telecamere, non posso saperlo. È molto bella, molto interessante. È una chitarra, è una silent guitar della Yamaha, che ho visto per la prima volta, tra l'altro con Matteo Caso, quando siamo andati da Merula a partecipare a un concorso, a portare del materiale per partecipare a un concorso musicale. E avevo visto questa chitarra qua, ho detto, che bella, di qua, di là. Ci ho pensato un pochino... e ho detto, ma sarà una chitarra, perché abituati comunque, cioè, alla chitarra normale, quel genovese diffidente, il genovese finché non tocca con mano. E a un certo punto siamo tornati giù a Genova, poi l'ho vista suonare anche da artisti conosciuti e tutto quanto, quindi allora è una buona chitarra. Comunque effettivamente sono stato contentissimo di averla comprata, primo perché non ha l'effetto Larsen, quindi tappi e ho tolto già un problema di, per suonare dal vivo, e secondo perché ha proprio un bel suono, mi piace proprio, mi ci trovo bene sia come manico che come suono. Mi sono, l'ho comprata più per l'estetica, perché mi piaceva questa cosa, e poi mi ho scoperto che invece aveva un bel suono. Sì, tra l'altro puoi suonarla anche in cuffia la sera senza dar fastidio a nessuno, ai vicini o cosa, cioè la cuffia poi sì è tutta innovativa tecnologica. Dovrebbe suonare anche da sola, suonerebbe meglio, però è un po' più difficile. Io voglio sapere il parere di Casu invece su questo pezzo. Sul pezzo? Sì, sul pezzo. Il pezzo è sempre stato un pezzo che considero un po' difficile da rendere, nel senso che anche lì c'è stato molto il contributo dello studio, nel senso di Rossano Villa, degli arrangiamenti, perché appunto quando lo avevamo sviluppato dal vivo nel corso degli anni eravamo riusciti a trovare un equilibrio, peraltro che funzionava secondo noi abbastanza bene per quanto riguarda il live, no? Quindi questa partenza chitarra e voce, poi nel progredire diventava più rock e poi rientrava. Renderlo ovviamente in studio era molto più complesso, e su questo abbiamo imparato molto lavorando in studio, e quindi torniamo un po' al discorso di prima. Invece per quanto riguarda il pezzo in quanto tale, sicuramente uno di quelli forse più, come si può dire, senza nulla togliere agli altri, più originali, più caratteristici di Matteo, no? Nel senso che mentre altri sono più in qualche modo inquadrabili nei generi, nella storia del rock o del cantautorato rock, questo effettivamente ha un pizzico di originalità, di contaminazioni che è raro trovare, ecco. E secondo me la contaminazione è data dagli archi, soprattutto dal raga rock finale. C'è un po' di raga rock, io mi ricordavo i Birds, cari ragazzi, voi siete giovani, forse i Birds li conoscete, ma i Birds erano il prototipo del raga rock, l'hanno inventato loro. E queste chitarre, non c'è il sitar, però poteva assomigliare al sitar, dava questo effetto, secondo me. E quello abbiamo scritto noi della redazione e della radio, abbiamo scritto di questo effetto, e quindi è un pezzo particolare, secondo me è il pezzo più complesso dell'album, più costruito, ma costruito nel senso positivo del termine. Che Matteo Casu, sei d'accordo? Sì, assolutamente, è un po' come dicevo prima, appunto, complesso sia nel doverlo rendere, sia probabilmente a livello di scrittura, certo. Agli accordi, all'arrangiamento, ecco. Chiaro, chiaramente questa sera l'abbiamo reso acustico, ma l'abbiamo reso bene, non sei d'accordo? Sì, sì, no, non parlavo col chitarrista che è qui presente. Sono d'accordo. Sei d'accordo? No, l'abbiamo reso bene. Giustamente tu dicevi, Andrea parla vicino al microfono, sai. Sì, era difficile rendere un pezzo simile perché aveva delle costruzioni un po' particolari, questo arrangiamento decisamente inusuale, però l'avete fatto bene secondo me. L'avete provato prima di arrivare qua, chiaramente l'avete. Sì, l'abbiamo provato ieri sera, poi abbiamo pensato quando? È solo ieri sera. Sono ripassato in macchina. Il nostro bassista ha detto ieri sera. Il bassista ieri sera. Dimmi. Nell'altra versione. Nell'altra versione. L'ho fatto qualche volta. È bello così. Perché quando si viene a Rockwave oppure a questo programma, a questa trasmissione, esatto, bisogna inventare. Bisogna inventare. Non sarebbe la prima volta. È anche un po', esatto. Se bisogna inventare, ma è bello così. E Blue Time Live, ecco, anche questo, inventare. Qui siamo tutti dal vivo, cari ragazzi, cari ascoltatori. C'è niente di prefabbricato, di costruito. In diretta 21 e 38 e 36 secondi. Di oggi 21. Beh, chiaramente, di oggi 21. Di oggi 20... Anche se abbiamo parlato del 29 febbraio. Anche se abbiamo parlato del 29 febbraio. Esatto. Senti, tutto si avvicina. Matteo, tu. Cosa fai domani sera? Sei libero per una pizza? Io? Sì. Per domani sera? Ci facciamo una pizza in tre. A tornare qua... Oh. Tu, io... Padova? No, ci facciamo una pizza, tu, io e Massimiliano Arioli. Ma dai! Io ci sto. Ti chiede se domani sera sei libero per fare la pizza con lui. Io ci sto, va bene, dai, domani sera, se dipende se torno, Massi, perché c'è la neve. Dice che è il tuo l'amico fraterno e vecchio batterista. Esatto, è lui. Qui rendo molto omaggio anche per tutto quello che abbiamo passato insieme, per, anche musicalmente abbiamo vissuto delle avventure veramente che ci vorrebbe un anno di trasmissione per raccontarle tutte. Appunto, noi siamo qui, non abbiamo problemi. Abbiamo tempo. Caso, una domanda anche per te. Sì. Qual è il tuo soprannome? Il mio soprannome, lo storico nei campi di Sicenza era Duracell. Ecco. Non per far pubblicità, no. Perché te lo chiede sempre Massimiliano, chiede qual è il tuo soprannome. Un aneddoto. Voleva vedere se era veramente lui al telefono. Sì. Se... Va bene. Beh, Duracell perché non si fermava mai. È così. Una volta che gli dai la chitarra in mano, basta, non lo fermi più, devi andargli dietro tu. Cioè, sei tu che devi cominciare. È vero, Matte? E poi diciamo che va bene, negli anni giovanili questa cosa era anche più accentuata. Sì, certo. Era uno stoccanovista, come possiamo dire, della chitarra. Staccanovista della chitarra, cioè non ti fermavi mai, andavi sempre avanti. E questo ti è servito, però, secondo me, per fare anche il disco stesso, o no? Cosa dici? Ho avuto la fortuna sfortuna poi ad interpretare per molto tempo, diciamo, siamo stati un gruppo molto scarno dal punto di vista della composizione, no? Quindi tantissime cose dovevo riempirle io. Ci sono state delle tastiere in certi periodi, ma in certi periodi siamo stati invece quasi il power trio più Matteo, no? Quindi... Sempre 16-100, sempre quello praticamente. Esatto. Nelle sue varie configurazioni. E poi sì, vabbè, devo dire che in studio un po' chiaramente l'aver studiato musica, un pochettino anche appunto questa passione che ti fa, non ti fa demordere mai, sicuramente aiuta, ecco. Vabbè, noi torniamo ancora dal vivo perché siete qui per questo, quindi facciamo ascoltare ancora sempre comunque la musica di Matteo Conta. Bassista è sempre in piedi, bassista. Davvero bassista, si alza, non sta seduto, in piedi chiaramente. Devo dare sicurezza. Appunto, il basso è fondamentale, non c'è la batteria ma il basso è fondamentale. Cosa ci proponi? Allora, vi farei ascoltare, visto che comunque arrivo da una città di mare a cui sono comunque molto legato. E ne approfitto tanto per salutare tutte le persone a Genova che ci stanno ascoltando in questo momento, che spero siano veramente tante, ma da come stai dicendo tu qualcuno riscontro lo sta mandando, quindi... Sì, anche Zazza, tra anche l'altro. Zazza, sì, grande, sì. Zazza si è fatto sentire. Ciao, grandissimo. Ciao, Zazza. Zazza, ciao. E vorrei farvi ascoltare La ragione del mare. E noi, avendo il mare, ce l'abbiamo d'inverno, d'estate, cioè chi vive a Milano ad esempio viene giù da noi d'estate e si fa magari 3-4 ore di coda per tornare poi indietro, tutto quanto, per vedere un po' il mare. Noi ce l'abbiamo sempre, quindi diventa a volte anche quasi un'abitudine, non lo vedi neanche più. Però in realtà c'è, e anche il rumore sottofondo c'è quando sei in Corso Italia, quando sei in strada proprio vicino al mare. E io mi fermo ogni tanto a guardarlo, questo mare, no? E ho scritto questa canzone un po' per la voglia di scappare da Genova, di scappare dalla mia città, dall'Italia, di avere nuove avventure, fare una vita un po' diversa, tutto quanto. Poi dico: il mare che è arrabbiato, che è calmo, che è, c'è il sole, c'è la neve, tutto quanto, ma il mare c'è sempre, no? Quindi la ragione del mare vuol dire, forse ha ragione lui a rimanere qua, c'è una ragione perché il mare è qua, forse c'è una ragione perché rimanga qua anch'io, forse. Non lo so, intanto ho già fatto la canzone, poi quando troverò la ragione... L'ascoltiamo e poi ne parliamo ancora perché mi interessa questo discorso del mare. Va bene. Sordo tutte quelle cose che mi fanno stare male. Fingo di imparare da quello che faccio, ma se sbaglio non me lo rinfaccio e voglio riprovare. Cerco di ottenere quello che mi piace, ma se vedo che non sono capace lascio stare. Non mi gonfio di quello che dico, ma soltanto per paura di scoppiare. Sono sempre in tempo per scappare, ma corro il rischio di inciampare. Vorrei sparire senza neanche salutare e andare via, ma poi mi limito a stare a volte ad osservare il mare, meno male che c'è lui. Ho paura e mi nascondo da questa armatura, voglio uscire. Se mi sento chiuso in gabbia, provo rabbia, non so proprio cosa potrei dire. Forse non mi sono spiegato, ci ho provato, ma ho scoperto che ho paura dell'amore. Ed è il fatto che mi sono accorto che nel mondo ci sono cose che non so capire. Sono sempre in tempo per scappare, ma corro il rischio di tornare. Mi dico spesso di mollare tutto quanto e andare via, ma poi mi limito ad ascoltare quel che dice il mare, penso che ha ragione lui. All'ultimo secondo, bellissima. Meglio rifai alla fine, fammelo un'altra volta. Paganini non ripete, ma stasera lo ripetiamo, vai. Bella, bella idea questa, è assolutamente fatta per la nostra trasmissione, chiaramente. Sì, certo. Una new entry per voi, praticamente. Sì. Dobbiamo sottolineare una cosa, caro Marco. Matteo. Originariamente nel pezzo... Pardon, ecco, sì. Senti adesso? No. Non senti bene? Adesso ti mettiamo a posto la cuffia. Abbi fede, un secondo. Allora, dicevo, siamo che assolutamente in diretta, quindi sono cose originariamente nel pezzo c'è un duetto. Sì, ecco, esattamente, le voci. Esattamente. Ecco, le voci, voce? Ecco, le voci sono di Max Lobuono e di... Marina Ghisalberti, che ha... sì, Marina, scusa. Dimmi, dimmi. E che hanno fatto un lavoro, Elisabetta Marinucci, scusami, ho sbagliato. I coristi, praticamente. I coristi sono i due coristi che hanno comunque, io non li conoscevo questi ragazzi, sono arrivati in studio in diciamo contattati da Rossano, che ha pensato che su qualche pezzo ci poteva stare qualche soprattutto in questo coro, pezzo ci stava molto bene. Sì, ci stava molto bene. Hanno proprio scelto i pezzi su cui mettere. Anche lì è stato tutto frutto del loro lavoro, delle loro idee. Non gli è stato imposto niente. Nel senso che sono arrivati avendo ascoltato i pezzi e ragionando su dove mettere. Su che armonizzazione andare per fare la seconda voce, tutto quanto, e mi hanno colpito molto, anche perché è stato un arricchimento non da poco, anche perché mi è sempre piaciuto fare, abbiamo sempre pensato anche con Matteo Caso, anche con gli altri, con Andrea Grimaldo, che era il nostro bassista, anche lui, che saluto, che adesso vive in Svizzera e probabilmente ci starà ascoltando questa sera. Quindi gli faccio un grande saluto. Ecco, una cosa che vorrei dire è che chi viene a suonare con me prima o poi va a lavorare All'estero. Fuori, all'estero. Così. E via. Sorride il chitarrista. Caso è arrivato a Torino. Matteo è arrivato caso. A Torino, però il primo bassista è andato a vivere a Bangkok, quindi voglio dire, cioè, pian piano ci si avvicina. E quindi niente, questa cosa qua dei cori non è una cosa semplice in realtà, perché uno dice, ah, ci sono i cori, facciamo i cori. Non siamo mai riusciti a trovare comunque un incastro giusto per poter rendere bene, perché il coro va anche nella parola giusta, certo. Sempre legato al testo, non è uno strumento musicale, cioè non è solo uno strumento musicale. Ma mi è piaciuto molto il pezzo, decisamente mi è piaciuto, perché l'impostazione della vocalità, questo duetto, era molto perspicace, era adatto proprio a questo pezzo. E questa era una ballad tutto sommato, sì, con sì, qualche esatto. sapore mediterraneo, noi abbiamo scritto della redazione della radio, perché noi l'abbiamo sentita in questa maniera. E il duetto era proprio, si stava bene al 100%, era quello che ci voleva per aumentare la qualità del pezzo, che già per se stesso era un buon pezzo, perché si vede che l'hai scritto con una certa cognizione di causa, parlando del mare, il mare è là, è sempre presente, il mare è tutto per Genova, chiaramente. Sì, è una sicurezza. Esatto, è una sicurezza. È anche una legatura a volte, perché uno dice vorrei andare, poi vabbè, uno se va a vivere a Venezia, al mare c'è lo stesso, non è che... ma però secondo me Genova offre molti di più artisti in questo senso, che dedicano le canzoni al mare che non Venezia, o sbaglio? Cioè è il mare di Genova, è proprio è una cosa che voi cantautori sentite proprio dentro, anche Zaza stesso dicevano più o meno le tue stesse parole, ma anche Karen, cioè è una cosa che sentite, anche Alberto Lupi Musso, insomma, che salutiamo, dice che proprio il mare di Genova è una cosa particolare, è un'ispirazione continua, totale, cioè gran parte delle canzoni nascono appunto da un rilassamento, perché sei seduto, che ne so, su uno scoglio, su una sedia, lì davanti al mare, o anche perché sei... lo stai ammirando. Sì, poi ci sono anche tanti locali a Genova che sono sul mare, quindi quando vai a prendere l'aperitivo anche magari d'inverno, anche se al chiuso c'è freddo, comunque il mare ce l'hai lì davanti, cioè è una cosa sempre presente, ecco, sì. Non so, ce lo portiamo dentro, forse perché siamo una città comunque di sì, lo so che marinai, facile. No? Certo. In passato, cioè Genova era cioè, il porto, la cosa più importante, diciamo, era il cuore di Genova, il mare, se... Alla fine siamo coperti, cioè siamo schiacciati dai monti, perché sono subito lì, quindi abbiamo subito i monti e il mare lì davanti, che ci dà questo anche senso di spazio aperto, di libertà. Ci giriamo dietro e vediamo il monte, quindi non vediamo quello che c'è oltre, non è una pianura che vediamo all'infinito, l'unica cosa che vediamo all'infinito è l'orizzonte che sta in fondo, diciamo. E forse ci ispirano i genovesi che creiamo qualche cosa di qualsiasi forma, ci ispira forse questo odore, anche il salino che ci corrode la moto pur tenendola dentro terra in garage, tant'è c'è il motore corroso, non, salino, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. E chi è che ha scritto le canzoni, Matteo, dal punto di vista testi, insomma? I testi? Tutti i tuoi. I testi tutti miei. Io scrivo canzoni da quando avevo più o meno 14 anni. E è sempre stata una passione, un divertimento, un bisogno in realtà, se andiamo a vedere, perché come dicevamo prima, ho bisogno di esternare le proprie sensazioni e tutto in una maniera di sfogarsi, più che altro e poi piacendomi molto la musica e non sapendo fare altro, nel senso a livello artistico, cioè se mi metto a disegnare non so neanche disegnare l'omino classico con le due manine, le due gambette, la pallina a forma di la testa a forma di pallina, e non parliamo di altre forme di arte. E quindi sì, ho sempre scritto io i testi, ci tengo molto a scrivere i testi perché è una cosa che fa sempre parte di un gruppo. Secondo me un musicista, uno strumentista deve avere il suo strumento in mano e dare del suo col suo strumento. Il mio strumento sono le parole. Mi piace molto giocare con le parole, mi piace molto proprio anche mettermi lì a scrivere, pensare, mi estraneo, è una cosa che mi dà molta... fa essere quello che sono, ecco. E sono tutte figlie della tua fantasia o nascono perché può capitare anche qualcosa e ti ispiri? Beh, no, la maggior parte sono canzoni che scrivo per tipo 29 febbraio che abbiamo fatto sentire prima, era nata da una notte insonne, la maggior parte nascono da notte insonne in realtà, che non vuol dire insonne per motivi negativi, ma anche solo per la mancanza di sonno, però probabilmente poi si crea nel cervello una reazione che E, un'alchimia, quindi, sì, qualcuno diceva un'alchimia, sì. Moltissimi pezzi di grande importanza sono nati di notte, molti sono, esatto, nati di notte. Di notte non silenzio. C'è silenzio. Possibilità di ragionare senza avere delle pressioni da fuori. Sei dentro, sì, con te stesso e ragioni e crei. Probabilmente è questo il discorso. Anche il buio aiuta. Anche il buio aiuta. Il buio aiuta tanto, perché una luce soffusa accesa lì a fianco è diverso di, sì, della, vero, luce del sole che entra. Un po' decadente, però. No? Sì, sì, sì, però romantico quello, sì. Sì, sì, è romantico, però è intimo. Ti mette in una situazione, perché quando uno poi scrive, poi dipende anche chi. Io parlo per mia esperienza, poi ci sono persone che scrivono a quattro mani, che si mettono lì a tavolino, studiano, certo, un testo, fanno il testo perché dicono: ah, ok, questo sarà commerciale, si parla di questo piuttosto che di politica, che di amore, che di qualsiasi altro argomento, però scritto a tavolino. Ci sono degli artisti famosi che hanno anche, durante l'intervista, hanno anche detto questa cosa. Non dico. C'è qualcuno che ha le cuffie un po' troppo alte. Però ecco, io preferisco scrivere quello che per adesso sento, più che mettermi a tavolino a scrivere una canzone. Non sarei capace forse di scrivere a quattro mani una canzone, perché poi ognuno ha anche il proprio modo di scrivere, quindi scrivere con un'altra persona ci vuole anche lì una sintonia abbastanza, cioè non si possono fare due pezzi completamente diversi, due generi completamente diversi, unirli, cioè è un lavoro comunque abbastanza impegnativo anche quello. Quindi sì, no, i testi li ho scritti tutti io, come... almeno quello lasciamelo. Sì, sì. E la musica invece? La musica, ecco, le canzoni nascono un po' così come l'avete sentita stasera, nel senso chitarra e voce. Uh-huh. Cioè, io scrivo in realtà, mi metto a suonare magari canzoni che ho già scritto, magari faccio anche delle cover per i fatti miei a casa, cioè di canzoni di artisti che mi piacciono, imparo anche a suonare un pochino di più. Senti, mi fai 30 secondi di una canzone di De André che hai storpiato con le tue parole? No, avevo 14 anni, non mi ricordo. È un aneddoto che posso, mi ha spiegato. Non posso prima. Perché poi torno a Genova, mi, cioè, no, è un mito, non si può toccare. Non si può toccare. No, non l'hai si detto toccare per prima. Un mito non si può toccare, molto molto pericoloso. No, non siamo gli Schianto. Sì. No. Anche se gli Schianto sono bravissimi, infatti ho ritoccato il testo, ma nel senso, per divertimento mio, avevo 14 anni, ma non l'ho mai fatto sentire a nessuno, ho strappato il foglio, l'ho bruciato, non è mai esistito, mai detto questa cosa. Beh, ma magari poteva essere uscito qualcosa di interessante, che ne so. Può essere. Casu, ci sei? Sono. Ah, eccoti, no, intanto fatti sentire che così sappiamo che ci sei. Allora, questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente preferita in questo preciso istante, con Agostino Spolaore, con Maurizio Calzavara, ma soprattutto con Matteo Conta, che ci sta raggiungendo da Genova, assieme a Stefano Carta al basso e Andrea Garrone alla chitarra, e abbiamo un altro chitarrista al telefono, cioè Matteo Casu, e poi abbiamo un'altra persona, un altro Poldo. L'hai salutato prima, Poldo, Maurizio? No. Ah, Poldo, sì, è vero, c'è Poldo, è vero, hai ragione. Poldo proprio è lì seduto e sta guardando tutti. Abbiamo la prima perché volta. Dobbiamo spiegare per chi vedrà poi le fotografie chi è Poldo, caro Matteo, spiega chi è Poldo. Poldo è il mio portafortuna in macchina, l'ho sempre avuto Poldo, da tanti anni che lo porto. Ho cambiato macchina, ma Poldo è rimasto con me. E ci tenevo stasera, era lì che mi guardava, è un ranocchio, di una grande catena di mobili. Sì. Costruiti in casa, sì, che uno si può costruire, sì, posso esatto, fare... esatto, quello là. È il ranocchio, il re, perché c'ha la corona in testa, certo, dei ranocchi, e beh, cospicco, mi guardava stasera, era lì, ha detto: sono stato schiacciato dal basso, chitarra, tutto quanto lì spiaccicato, portami con te a vedere. E allora l'ho portato qua sul tavolo con noi, poi vedrete le foto. Abbiamo su compagnia anche di un peluche. ho chiesto, cari ascoltatori, se lo porta anche in concerto. Lui ha detto di no, il ranocchio rimane in macchina. Peccato, perché non lo porti in concerto? Adesso è perché non vado con la macchina, perché solitamente andiamo a piedi, perché sennò I nostri numeri telefonici come studio 049 875 6423, gli sms invece è il 346 23 20 033, ma se volete risparmiare anche i soldi di un sms ci sono le pagine di Facebook, la mia, cioè Agostino Spolaore, c'è cioè quella della radio Blu Radio Veneto, anzi due ne abbiamo, Blu Radio Veneto e l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, quindi potete tranquillamente scrivere anche lì, e poi io, come ho fatto con Massimiliano, come ho fatto con Zazza, che poi tra l'altro ti ha scritto un messaggio simpaticissimo, adesso te lo leggo. leggo. Vi ricordo appunto, basta, potete anche tranquillamente scrivere lì, anche nella pagina di Matteo, che leggo anche la tua, vero Matteo? Mi sì, permetti? Sì. Ecco. Zaza dice: una radio senza spot è una cosa grandiosa, ma mi scappa la pipì e non so quando andare in bagno. Potete fare una pausa di 50 secondi? Non voglio perdermi un solo attimo. Grandi ragazzi. È sempre una forza della natura, Zaza. Se ne facciamo un po' di pubblicità noi, Zaza. È proprio una cosa pazzesca. Senti Matteo, vuoi riposarti o vuoi suonare ancora dal vivo? Cosa vuoi tu a fare? Ma direi che potremmo far sentire una canzone da CD. Perfetto. Che, okay. Cosa hai scelto? Una canzone che a cui tengo molto, innanzitutto perché è dedicata alla persona che amo, e quindi l'ho scritta. Questa anche è il frutto di una notte insonne, e l'ho scritta una mattina dalle 6 alle 8, poi sono andato a lavorare. L'ho rifinita un pochino, la settimana dopo abbiamo cominciato il CD. L'ho scritta pensando, proprio dedicata a Valeria, che è la persona, la mia compagna, che anche lei ci starà ascoltando in questo momento, quindi ho dedicato questa canzone a lei, l'ho scritta proprio per lei, perché scrivevamo sempre su Facebook dedicandoci delle canzoni con scritto per te, e capivamo che era una canzone di altri, così. Allora a questo punto ho detto: ma scrivo proprio una canzone per te, che più per te di così non può essere, no? E questa canzone comunque sarà sempre per te, in qualsiasi forma, in qualsiasi momento, è sempre dedicata a Valeria. E la cosa bella è che siamo arrivati in studio per registrare, il batterista si è messo in studio con batteria, tutto quanto pronto, in cuffia, il fonico Rossano si è girato, gli ha detto allora Davide, che tanto saluto Davide Bertoletti, che ci accompagna in versione elettrica, il nostro batterista da tanto tempo, quindi anche lui merita comunque di essere nominato in questa. Lo salutano anche qua con la manina, Stefano. Ciao Davide, e Andrea. Ciao Davide. E, è stato bellissimo che Rossano si è girato verso Davide e ha detto: allora sei pronto? Ce l'hai in testa bene il pezzo? Davide l'ha guardato e ci fa: ma veramente io non ho ancora sentito sto pezzo. E quindi per quello che ci tenevo a farlo sentire dal vivo, perché in realtà secondo me è anche uno dei pezzi più ben riusciti come arrangiamento anche nel CD, nato proprio da zero, cioè dalla chitarra così la traccia, e via. Abbiamo continuato poi a costruirlo in studio. Quindi adesso ci ascoltiamo Per te. Quando guardo nei tuoi occhi vedo di riflesso parte di me stesso che non conoscevo, quello che credevo fosse perso l'ho trovato stando insieme a te. E se penso alla tua pelle sulla mia mi accorgo che non ero stato mai completamente libero e l'amore non l'avevo fatto mai. E se penso al tuo respiro non capisco come faccio a stare un giorno intero senza avere un attimo di tutto quello che tu sei. Quando penso a te che sono da solo, il tuo profumo che fa ancora parte del cuscino, se l'abbraccio sa parlarmi ancora un po' di te. Di te, che sei la mia luce, sai, e con la tua voce fai vibrare le corde della mia chitarra. Te, sei la mia musica. Se ti vedo camminare non riesco a guardare altrove, solo il corpo tuo come si muove mi ipnotizza come le sirene, ma non ho catene che mi fermano. E se rido che ti sono a fianco è perché mi accorgo che non sono stanco di osservarti e ascoltarti ridere con me. Come faccio a stare un giorno intero senza avere tra le mani le tue mani? Se rimani so che poi domani ti ricorderai, e donando anche solo un pezzettino del tuo cuore a questo cantautore, dalle tue parole una canzone nuova nascerà. La voce, la libertà. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Per te che sei la mia musica, la voce, la libertà di scegliere te e portarti in cima al mondo. Te che ogni tua lacrima mi annega l'anima, l'asciugherò. Che belle parole per chiudere questa canzone, splendida, veramente splendida, Matteo, mi è piaciuta moltissimo. Grazie, ti ringrazio, è una canzone che mi emoziona sempre, mi ricorderò sempre la prima volta che gliel'ho cantata, guardandola negli occhi e non distaccando un secondo lo sguardo e vedendo, cioè mi sono emozionato forse più io di lei, non so, eravamo è stato un momento di emozione molto importante, molto forte, molto forte, e sono parole che ho scritto proprio. Ti dico, questa è una delle canzoni, come dicevamo prima, che sono nate di getto perché sono nate proprio spontaneamente, sono proprio le canzoni. Ogni parola ha un significato vero, ecco, non è costruita a tavolino, è stata proprio. Io credo che sarai emozionata anche adesso mentre stai ascoltando questo, quello che stai dicendo, Valeria. O sbaglio, Matteo? Non lo so, devi chiedere a lei. Io spero tanto di sì, perché me lo farai sapere. Senti, prima di continuare questa chiacchierata ti porto i saluti di un tuo carissimo amico, ma non solamente tuo, anche nostro, mio e di Maurizio, cioè Alberto Lupimusso, che abbiamo, che abbiamo parlato prima, ma fatalità ci sta ascoltando e ti porta i suoi cari saluti, dice adesso sono stanco dalle prove, adesso me ne vado a letto, però un saluto a Conta volevo darglielo, insomma. Ciao Alberto, grazie. Sarà prossimo ospite per il suo nuovo disco, che poi insomma è già datato qualche mese, in estate. Anche lui verrà qui a presentarci il suo nuovo lavoro. E speriamo di incontrarci prima, comunque. Se no, contraccambierò i saluti anch'io da certo. Blue Radio Veneto. Sì. Perché grande no? Alberto, bravissimo. Tutto quello che conta è il titolo del tuo disco. Ma che difficoltà hai avuto per mettere in musica 11 tracce? Mi pare sono 12 tracce. Con la quantità cospicua di pezzi che avevi in repertorio. Che scelta c'è stata? È stata una scelta difficile? È stata una scelta fatta da Matteo Conta o è stata fatta anche attraverso gli altri? È stata fatta principalmente da me e da Matteo Casu. Perché i due comunque, Mattei. I due Mattei, sì. Tra tutti i pezzi che avevamo deciso poi di mettere questi, anche perché in realtà in questo CD ci sono i pezzi più nuovi che abbiamo che ho scritto. Avevi scritti altri precedentemente. Ho scritti altri, sì. Cioè, materiale per fare altri CD, manca la materia seconda, perché prima sono i testi, la materia seconda sono quelle palanche, cose, si dice palanche, a Genova. Quelle purtroppo è una materia importante. È una materia importante che diventa purtroppo prima quando non c'è. Esattamente. E non è stata una scelta facile, perché comunque ogni canzone per me, io non posso valutare se la mia canzone è bella o no, perché avendola scritta io posso dire vabbè, questa pensavo a cose più leggere, questa per me è più importante, ma in realtà non è detto che sia più importante per forza di contenuto come parole, ma può avere un'importanza solo per me e potrebbe essere una canzone anche un po' stupida, nel senso come testo un po' ironica, divertente. E scegliere tra le proprie canzoni è come scegliere un po' tra i propri figli, difficile, è mio preferito, come fai, cioè dire non si può. Cosa mettiamo qua? Facciamo un CD facciamo un DVD con 300 tracce, 300 non ce l'ho, ma magari 30 tracce, allora sarebbe stato più semplice, un po' più dispendioso magari. Ma il mercato del DVD è già difficile, il mercato del disco DVD in Italia. No, l'IVD per forza di cose bisognerebbe fare un live. Esatto, bisognerebbe fare un live. Che bene. In 3D ormai. Esatto, in 3D, anche se live ne hai fatti tanti, però è una cosa alla lunga, molto a lunga. L'importante è il tuo CD, quello che è venuto fuori. Cioè il CD è fondamentale, incidere un CD e dare alle stampe un CD, vendere tra virgolette un CD è una cosa che rende orgogliosissimi, secondo me. Sì, soprattutto quando lo vendi al concerti, quando suoni e logicamente, come ripeto, nei locali a Genova, vendere, cioè dare, cioè far sentire la musica, esatto, proprio quello, esatto. Al di là di vendere forse ho usato un eufemismo, però cioè, vendere comunque non è una, perché regalare è una cosa, vendere è dare anche un valore all'oggetto che si acquista, al lavoro che hai fatto. Perché se vai a un concerto e regali 50 CD, ok, 50 persone ce l'hanno, lo ascoltano magari in 10. Vai a un concerto, ti comprano 10 CD, quei 10 CD li ascoltano, perché hanno un valore. Che poi l'ultimo concerto per Zero Cover che abbiamo fatto il 12 di marzo, di febbraio, martedì, l'ho venduti a sotto costo, a 5 euro, apposta per il discorso di zero cover, per un discorso di così anche di pubblicità, di soddisfazione. Comunque è stato comunque un valore, ha un valore lo stesso l'oggetto acquistato. Sì, sì, ho capito, ho capito. E chi ha voluto prenderlo l'ha preso con un piacere, mi ha dato molta soddisfazione le persone che l'hanno comprato, perché è stato più il gesto, non tanto il discorso, come dicevi tu, vendere in senso monetario, in senso proprio pratico. Ecco. Certo, certo. Anche quello ha un suo contenuto. Certo. Allora, prima di suonare ancora, perché voglio sentirti dal vivo, poi torneremo in studio magari con una canzone dal disco. Intanto, Casu, sei sempre lì tu, sì? Sono sempre qua. Sei sempre. Sei talmente silenzioso che non ci si sente. Ma sarà la neve di Torino, forse, Casu? Sì, è tutto vattato. io. Dimmi. Molto interesse. No, dimmi, Casu. No, dicevo, vi ascolto con molto interesse, molto partecipe, quindi appunto... Quando vuoi intervenire sei libero di farlo, sei sempre lì, ti stai facendo compagnia, va bene? È come se fossi qui, va bene, Matteo? Grazie. Sì, sì. Suiaria alla Pink Floyd, vorrei che tu fossi qui, praticamente. Sì, sì. Allora, un'informazione prima che tu ti prepari, Matteo, per chi fosse interessato, per i cantautori all'ascolto, vi ricordo che è... prossima la scadenza del premio Poggio Bustone, quello dedicato a Lucio Battisti, siccome mi hanno scritto e probabilmente forse magari ci sarò anche, insomma, sono sempre in mezzo come il prezzemolo. Allora vi ricordo che la scadenza per presentare la documentazione è il 10 marzo, perciò chi fosse interessato, voi cantautori all'ascolto, cantautrici che volete partecipare a questo bellissimo premio dedicato a Lucio Battisti, appunto ricordo la scadenza è il 10 marzo. E poi ancora lì sono sicuro che ci sarò perché me l'hanno già detto, vi ricordo che c'è anche, a proposito di Genova, c'è l'edizione ancora una volta giù a Capri, a Donna Capri, del premio Bruno Lauzi a fine agosto, e il bando è già in circolazione. Se qualcuno volesse chiedere informazioni, basta che può chiedere anche al sottoscritto, ve le posso tranquillamente dare. Insomma, detto questo, Matteo, cosa ci fai ascoltare adesso? Allora, adesso vi faccio ascoltare una canzone che si intitola Uno come me, che questa è un'altra canzone nata dalla fantasia, in realtà, da nessuna storia vissuta o raccontata, solo immaginata. L'ho immaginata per scriverla a un pranzo di matrimonio, seduto vicino a una ragazza che mi piaceva, che piaceva al personaggio, io parlo in prima persona perché l'ho scritta io, però che questo personaggio con a fianco questa ragazza che non sa cosa dirle, un po' come l'appuntamento, però in realtà cerca di, vede questa ragazza che infatti all'inizio dice vorrebbe conoscere tutto quanto, alla fine dice invece che vorrebbe lasciarla perdere perché intanto, cioè, è una sciacquetta o cosa, no? Per dire, perché solo perché non ha avuto il coraggio di parlarle, pur essendoci seduto a tavola. Quando ti capita nei matrimoni che c'è il bigliettino col nome, non sai, cioè, ti siedi, poi dice questo chi è, così conosci, no? E quindi anche la timidezza anche di questo testo, della persona che del soggetto di questo testo. È un po' come te, anche tu sei timido, Matteo, sbaglio? Io sì, sì, sono timido. Sono timido e emotivo, non mi vergogno a dirlo, no, perché no, comunque è una mica... Io sono come te più o meno. Allora facciamo un lavoro che ci impegna molto, perché... Sì, sì, sì. Perché no? Allora, la canzone di Civi si chiama Uno come me. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Sono qui seduto accanto a te, senza neanche chiedermi perché. Col bicchiere in mano ancora mezzo pieno, con addosso qualche anno in meno, con la voglia di spaccare il mondo, in senso metaforico intendo dire che non sono stupido, forse poco responsabile, ma non per questo senza scrupoli, riconosco anch'io i miei limiti, hai mai incontrato uno come me, che cosa raccontava? Che cosa ti diceva di lui? Io avrei da fargli qualche domandina, tipo che cosa avrebbe fatto al posto mio con una come te. la solita paura del futuro, di confondere l'incerto col sicuro. Metto via i ricordi più lontani, stringo il tovagliolo tra le mani. Ma dove eri qualche anno fa? Come mai sei capitata qua? Forse è stata colpa del destino se mi son seduto qui vicino. Hai mai incontrato uno come me? Che cosa ti diceva? Che cosa ti piaceva di lui? Io non riesco neanche a dirti una parola, ma non è questo il punto. Mi piacerebbe se incominciassi tu. Hai mai incontrato un altro come me? Dove ti portava? Che cosa avresti fatto per lui? Io avrei da fargli qualche domandina, tipo che cosa avrebbe fatto al posto mio con una come te. Puoi passarmi il sale, certamente anche colpa mia se l'occasione è scivolata via. Il bicchiere adesso è mezzo vuoto, è bastato un sorso ed è finito. Se tu incontrassi un altro come me, ti prego lascia stare, non farti presentare così. Io eviterei di fargli qualche domandina, tipo che cosa ci sta a fare lui con una come te. Io eviterei di farmi qualche domandina, tipo che cosa ci sto a fare qui seduto accanto a te. Nel segno del blues, nel segno di blues, mi rifai quel sollievo là piccolino di blues, vai vai. Fa sempre bene alla salute, secondo me, cosa dite? Nel segno del blues, perché che è bello il blues, è bello, cioè è un po' alla Tom Waits all'inizio, leggermente alla Tom Waits, poi chiaramente no, però all'inizio avevi un po' quel andamento da raccontare, da racconto. Poi le cose sono cambiate, il pezzo si è sviluppato, ma il blues entra, esce e rientra. È una bella cosa, secondo me. Sei soddisfatto del blues? Sì, sì, sì. È la madre, il padre, diciamo, cioè, di tutto. Entrambe le cose di tutta la musica, comunque. È un po' l'origine di tutto, beh, soprattutto per i chitarristi. Eh sì, soprattutto per i chitarristi. I due un Matteo che è al telefono. E tu che sei presente. Uno al di là e uno al di qua. Esattamente, la barricata, ma è sempre la stessa barricata. Si può superare, proprio ci rientra sempre immediatamente. E l'effetto del blues, o meglio, l'effetto di questo pezzo che l'ha colorato in questa maniera, che ha molto, molto feeling. Così, Matteo. Sì, sì, in base al di là della storia, al di là del pezzo, che può essere anche collegato a uno che non è genovese, di Torino, Paolo Conte, di Torino, in provincia, perdon, che non sbagliamo, non è di Torino, è in provincia, cioè in Piemontese, ecco, Piemontese. Tagliamo la testa del toro, che non è ligure, però ha qualcosa di liguri lo stesso Paolo Conte. Sì, sì, sì, certo, certo. Ma sì, il discorso è che, come dicevo prima, la musica non... non catalogandola come italiana o straniera, non la cataloghiamo neanche come genere, nel senso, vero. A me piace, mi piacciono molto artisti famosi, beh, posso dirlo, mi piace molto Daniele Silvestri, ad esempio, certo. Mi piace molto Caparezza. Anche lui ama il blues, Daniele Silvestri. Lui ama fare canzoni che non hanno tutte lo stesso genere, perché comunque esprimono tutte dei concetti diversi, delle emozioni diverse. Cioè, un concerto intero di un cantante, di un cantautore che però si adatta ad un genere e fa solo quello, tipo, no vabbè, non faccio nomi, su esempi cattivi non ne faccio, però tanti conosciamo, tanti artisti che comunque senti la prima nota e dici questo è lui, immediatamente si senti riconosce. La prima parola dici questo è lui, senti, è lui. Lo sappiamo già tutti, questo giardino grandissimo, ecco, è lui, lui. Questo è il pezzo che ha lanciato Pippo. Questo? E salirà, il Pippo, è il pezzo di Pippo a Sanremo. Ha lanciato Pippo, è diventato una star nazionale Daniele Silvestri con Salirà. Sì. Però era già molto però è stato sdoganato con questo pezzo, a livello proprio di tutti, ecco. Sì, bisogna ascoltare molto i testi di Daniele, perché secondo me sono molto interessanti. Ma anche i testi di Matteo Conte sono interessanti. Questo però non lo posso dire. Se lo dicesse Daniele sarei contento, anche uno scambio di vedute. No, più che altro, ecco, sì, mi piace molto per il suo discorso di come il mio, di non fossilizzarmi su un genere, ma trovare anche un genere adatto per il concetto che esprimo in quel momento. Perché l'emozione che provo, più che altro a dire, perché il disco tuo è vario, ci sono tante facce, tanti momenti, tante colorazioni, e quello frutto anche di tanto salire sul palco, di tanti anni a cantare, a suonare, però ha tante facce, anche tanto di ascoltare, e tanto ascolti, tanti ascolti, esatto. Sì, sono d'accordo. Duracell, ci sei? Ci sono. Senti, che... censurando, no? Perché in quanto dura, cioè, se no poi... Esatto. Allora, volevo chiederti, ci siamo un po' scordati di farla questa domanda, che la facciamo sempre in ogni trasmissione, la faccio prima a te. Velocemente, senza tanto pensarci su, cosa ti porteresti in un'isola deserta se hai 3 dischi a disposizione? Oddio, questa domanda famosissima, difficilissima. Puoi iniziare a portare, Beh, assolutamente Born to Run di Springsteen, per primo. Mi pare giusto, e che poi, sia un springsteano convinto, quindi so. Poi beh, altri 2 dischi suoi, ma se proprio adesso... No, solo uno del boss, solo uno. Adesso non posso fare il fan sfegatato, quindi... Appunto. Dunque, non saprei. Beh, ovviamente tutto quello che conta, perché diciamo... Beh, certo, è chiaro. C'è anche un po' di campanilismo e di tutto, e poi dunque... Oddio, non mi viene proprio in mente. In coda a conta. In coda a conta, che senso? Nel senso che prima vai tu, adesso me mi faccio venire. Ho capito. Passi la palla, ho capito. Prima però sentiamo Stefano. Che dischi? Sì, vai Stefano. Vabbè, mi porterei, se andiamo sullo straniero, Fiche Zeberiche di Jethro Tull. È bella, bella scelta. Wow. Quello me lo devo portare. Bella scelta, bella scelta. Sai che credo tu sei il primo che mi Sì, il primo che ha scelto proprio Fiche Zeberiche. Molto hanno scelto Aqualung, ma Fiche Zeberiche è il primo. Per i concept album mi affascinano. E quindi giusto per questo discorso mi porterei... qualcosa di De André, o La Buona Novella, o Storia di un Impiegato, lì sarei indeciso. Poi abbiamo detto 3. Sì, un altro. Non lo so, il secondo suo quando esce. Perché no? Beh, ma lì magari ci suonerei anche, quindi sarei anche stufo di sentirlo. Ha ragione, me lo porto. Poi tocca a te. Lo porto. Il nostro chitarrista qui presente. Sì, in effetti non ho mai pensato... a questa cosa, dei dischi portare su un'isola altre cose magari, ma dischi beh, ci vorrebbe poi possiamo dire entità musicali. Agostino può anche dire entità musicali, cioè, ma amori musicali tuoi, dai. Questa è già più facile. Una musa ispiratrice, magari. Non avendo la chitarra, mi basterebbe appunto avere una presenza magari umana che mi ispira, che racchiude tutta la musica, sicuramente. Ma se no, pensavo alla chitarra, quella a 7 manici di Pat Metheny, così imparerei a suonare una chitarra un po' diversa. No, come dischi, molto probabilmente, sono molto affezionato ad esempio a The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. che... oppure che ne so, un disco qualsiasi dei Van Halen. Ah beh, dei Van Halen, certo, anche probabilmente quello. Esattamente. The Dark Side penso sarà nel Guinness di primati del nostro programma, chiaramente è sempre stato citato quasi in ogni trasmissione, quindi sono passati 7 anni di live, quindi che abbiamo fatto, abbiamo passati tanti musicisti, e Dark Side sicuramente in testa alle preferenze di tutti i musicisti che sono passati per di qua. Bene, chi tocca adesso? Tocca a Matteo. Ah, tocca a Matteo. Speravo di scamparmela la domanda. Ma eh no, la domanda non si può fuggire. 3 CD sull'isola deserta. Sì, esattamente, quello che vuoi. C'è un lettore di CD sull'isola deserta. Però, quella perché... a batteria dura, c'è a proposito. Ah, ok, dipende anche quanto tempo ci stai sull'isola deserta. Esattamente. 3 CD mi porterei, vabbè, l'abbiamo nominato prima, quindi lo dico, Live Transito, che è un CD doppio, ma è sempre una raccolta unica, quindi di Daniele Silvestri. Mm. Abibus Kappa di Caparezza. Ah, Caparezza hai scelto, bene. E il live di Ron, Mannoia, Daniele e De Gregorio. Oh, wow, 4. È bellissimo, 4, sì. Piace moltissimo anche a me. Lo ascolto, sia il video che l'audio, lo ascolto tantissimo. È proprio, sì, una cosa che mi piace proprio tantissimo. È splendido, splendido quel disco. Ce l'ho anch'io. Ah, ce l'hai anche te? In vinile ce l'hai? No, in CD. CD. Io, sì, anche io ce l'ho, sì. Non ricordo se in vinile o in CD, però ce l'ho, ovviamente. È un disco... ha inaugurato il modo di suonare in quattro. Stato proprio, esatto, lì è molto acustico, alcuni pezzi, sì. Va bene, c'è tutta l'orchestra, sì, dietro, va, certo. Bene, però le canzoni proprio in acustico, due chitarre, anche Ron che suona la chitarra ritmata, e ma c'è Pino semplice. Daniele che suonava bene la chitarra, eh. Sì, però anche le cose fatte semplici sono proprio... poi non so, sì, spontanee. Sono spontanee, sono proprio coinvolgenti. E poi ci le girano sulla torta univa tutti quanti, fuori la mia noia. Univa, sì, esatto. Senti, abbiamo qualche secondo prima di chiudere, però prima ci ascoltiamo Cima del Monte, se sei d'accordo. Cima o volevi sì. Mani Utili? Ma, tutte e due hanno un senso. Diciamo che Mani Utili è un... Dimmi argomento tu. Un pochino più serio. Cima del Monte, no, va bene, Cima del Monte perché è un dipinto, ecco. Cima del Monte è una canzone che non racconta niente, è soltanto un insieme di immagini. E allora? Che cosa scegli? Cima del Monte. Ok, ascoltiamo questa, poi magari ne parliamo. Va bene. Ok. Cima del monte, grida il tuo nome, l'eco risponde immediatamente, mentre la luce viene filtrata dai rami delle piante, foglie di ortica, rocce che si scaldano fortemente, acqua che porta calma di fiume, rabbia di torrente, verso l'affluente. Color verde e terra, rumori di fondo, fumi di incensi accesi al tramonto, ancora confondo nuvole e ombre di questo sfondo, che porta con sé piccole impronte di questo mondo, che trova la voglia di volare, che io nascondo in fondo alla mia mente. Sapore di pane, appena sfornato e subito vittima della mia fame, data da te, donna mia, specchio delle mie brame, dimmelo tu che sono il più bello del reame, dammela tu questa voglia di stare bene, che cerco un pensamento. soffuse, parole già scritte cadute su un bianco foglio confuse, raccontano frasi di lacrime e gioie di cui sono intrise, vogliono esprimere forti emozioni ma poco precise, vivono da sempre nel lieve timore di essere derise da chi non le comprende. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Siamo arrivati alla fine, è arrivato Renato che adesso vi proporrà la sua heavy metal classica, il suo hard rock, come si può dire? Sì, classico. Classico, insomma, però prima insomma ci salutiamo con Matteo. Matteo, non ti abbiamo ancora fatto dire il tuo sito, i tuoi contatti e dove si può acquistare il disco, i tuoi prossimi concerti? Allora sì, il mio sito è www.matteoconta.it, quindi molto semplice, e da lì poi ci sono tutti i link alla pagina di Facebook, a Twitter, Google Plus, YouTube, dove ci sono dei video di alcuni concerti che abbiamo fatto, video molto diciamo presi con la videocamera, così molto alla buona, ma comunque sono testimonianze, ecco, di situazioni vissute. E il CD si può comprare su iTunes, si può comprare contattandomi, il CD fisicamente non è nessun negozio. Ricordiamo il titolo del CD. Il CD è tutto quello che conta, e quindi tutto quello che conta è per ognuno qualcosa di proprio, quindi non potete dimenticare il titolo. E si può acquistare online o altrimenti mi potete contattare, verrà spedito in tutta Italia comunque senza nessun problema a chiunque lo richiedesse. Si può ascoltare sul sito qualche brano, ho messo sul sito qualche brano da ascoltare in anteprima, quindi si può anche rendere, si può anche stare un po' di tempo sul mio sito, ci si può registrare, giuro che non faccio spam e scrivo solo quello che faremo, tipo la presentazione di stasera del CD qua in radio e tutto quanto, quindi se andate sul sito vi registrate, vi arriveranno poi le email personalizzate sulle nostre attività, sulle cose future che arriveranno, spero, sempre più numerose. E te lo auguriamo anche di cuore, insomma, ovviamente, solo che hai tanto successo perché te lo meriti, sei una persona umile e sei un bravissimo cantautore. E io dovrei ringraziare anche Andrea. Ciao. Diciamo, grazie. Andrea Garrone. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie di aver accompagnato Matteo questa sera, grazie anche a Stefano Carta. Grazie a tutti, ciao. Dura, ci sei? Ci sono. Le batterie non sono finite ancora. Non sono finite. È ricaricabile, Dura c'è ricaricabile. Sì. Matteo, grazie di essere stato con noi, grazie della disponibilità, sai. Grazie davvero anche a voi, mi sono divertito. E quando c'hai qualcosa di tuo da proporci, siamo qui. Beh, ho qualcosa nel cassetto che chissà, prima o poi deciderò. Che io conosco. Ecco. Beh, allora vi tengo informato da Matteo Conta. Va bene, grazie ancora Matteo, ciao. Grazie a voi. Ciao. Allora Maurizio, noi ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Sì, giovedì prossimo. No, prima c'è mercoledì, c'è la presentazione del premio. Sì, mercoledì c'è la presentazione, sì. Beh, non farai un live però presentiamo il premio Bruno Lauzi, che sarà appunto a fine agosto. Il giro riprenderà per me martedì. E invece giovedì, come di consueto con il live, ci sarà Michele Savino, che come dicevamo prima, insomma, è un vostro carissimo amico, quindi sarà qui anche lui. Va bene, Matteo, grazie ancora di aver fatto tutta questa strada per venire a presentarci la tua musica. Grazie a voi che mi avete invitato, è stata un'esperienza bellissima, e a chi verrà, soprattutto dei miei colleghi genovesi, vi assicuro che ne vale veramente la pena, pure con la bufera di neve. Esattamente. E tra l'altro sta nevicando ancora adesso. E va benissimo, affrontiamo il viaggio di ritorno allegrissimi e vale veramente la pena, perché ci si sente proprio come a casa. Qui. Ecco. Quindi grazie veramente tanto. Grazie. Ci salutiamo con che canzone? Ci salutiamo con una canzone che si intitola Valeria, che sempre tratta dal CD, la facciamo in versione acustica, e ne approfitto per salutare Valeria, tutti gli altri amici, Massimiliano Rioli, Matteo Casu, Zazza con tutto lo Zero Cover, tutto lo staff, tutti i colleghi a Genova che ci hanno ascoltato, e speriamo di sentirci presto. Bene, ti saluta Zazza velocemente, ciao belli, alla prossima. Allora, un ciao, un buon proseguimento all'ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto che continuano con Renato Ferro e la sua Heavy Metal. Ciao a tutti, prego. Le grandi occhi l'ho visti in una piccola bottega che vendeva fantasie, vetrine di ricordi, sogni e voci che da quando l'ho sentite le ho fatte anche un po' mie, così le porto sempre insieme a me. Col profumo di un'estate, quando ne son già passate, non mi ricordo mai. Guardandoti negli occhi mi son poi subito accorto che in fondo non me ne importa, e sai perché? Se sei con me il sole c'è. Un falco senza ali non può volare, non può vivere senza il mare, un cane ha un amore a cui scodinzolare, io ho bisogno di te per suonare. Era la tua pelle come un soffice cuscino su cui stare a sognare un grande amore. Se fuori poi ci fosse il temporale non potrebbe farmi male, sentirei solo il suo odore. E se la luce poi si spegne il tuo respiro mi illuminerà, il tuo respiro mi illuminerà.